Ehi ragazzi, siamo su Opencast Alpha, anche questa sera, anche se fuori c'è freddo e nevica, a noi che ci frega, se dentro si sta al caldo e si può ascoltare Opencast Alpha, Opencast Alpha. Cazzo, Alfa, la puntata numero non si capisce perché. Ma era con la Z, Open 8. Open Cazzo. Open Cast, siamo in diretta di Kazakistan con Open Cast. Vabbè, devi sempre far notare tutte le minime virgole che sbaglio, non ho capito. Open Cast, qui è inverno molto freddo. Li voglio scaricare. Giusto, questi erano The Duckers Cagettes. Il pezzo era Overest Blues dall'album The Duckers. Scusa, loro sono i Duckers Skagets e il pezzo blues. Si chiama così, cosa vuoi che ti dico? Non bene. E allora, scaricabile da Jamendo anche questo. Jamendo. Secondo, e soprattutto sì? Il link si troverete, lo troverete su www.gl-como.it insieme www. A tutto il resto. No, giusto per ricordarvelo. Come al solito, secondo, visto secondo. Che il primo non c'è, secondo me siamo alla puntata numero 3. Quindi 0123. 0123. Che bella fregata. Quindi la quarta. Quindi la quarta, però. Allora, ragazzi, se dobbiamo complicarci la vita, cominciamo a dire le puntate in codice binario a questo punto. Oh, facciamo i nerd. Facciamo i nerd fino in fondo. Ecco. Ecco, visto che mi si accusa. Oh, vai al martedì a registrare quella roba da nerd. Ah, sì, bravo. Perché ormai chi non è nerd, eh? Tu passi mezza giornata su Facebook, non sei un nerd. Certo che sei un nerd, peggio di me, della peggior specie. Bene, andiamo avanti con il notiziario di oggi. Ah, io volevo innanzitutto fare i saluti, però. Ah, sì, prego, prego. No, ciao. Ciao a tutti, anch'io volevo salutare Federica. Federica, puoi guardare su Wikipedia alla voce podcaster, opencaster, super fichissimo? Non sono io? E chi è? Vabbè, salutiamo Federica. Va bene, è un'amica che ci ascolta. Sì, sì, e Federica è sempre Federica. Un'amica. Basta, l'amica. No, va così. Vabbè, Buonasera. Buonasera. Buonasera. Ecco cosa che ci parla. Tutto bene? Ci sei anche tu stasera? Sì. Quindi stasera chi siamo? Loris, Coso e io e tu. Come al solito, ci siamo Loris, tutti. Coso e io. Oggi non abbiamo nessun inviato causa speciale neve. Causa neve. Causa so. Neve, nessun ritegno tra le altre cose oggi, vorrei sottolineare nessun ritegno, nessun freno inibitore. Sarà, nessun, scusa? Freno inibitore. Ah, freno inibitore. Io fremo. Vogliamo parlare anche in modo forbito o forbito? Parliamo in maniera forchetta. Io direi che se continuiamo a parlare così la pagina diventerà Forbidden, errore 404. E forse è meglio la di no. La seguiamo via se no. E basta. Va bene, cosa volevi parlarci? Stasera ti vedo. Guarda, carico. Volevo parlarci di alcune notizie che ho trovato sulla rete molto interessanti. Allora, una notizia che secondo me è veramente una bomba. E adesso io che non ci starò ascoltando, visto che abbiamo detto una parola chiave. Noi non ci abbassiamo a parlare delle solite cose, visto che i telegiornali parlano tutti di WikiLeaks, noi ovviamente... Tanto ormai lo sapete. Tanto WikiLeaks, noi abbiamo rapporti anche, cioè ci vediamo con... Tu magari, Putin, adesso, sai, già che ci ascoltano. Prendiamo un caffè ogni tanto, lui nel suo bunker segreto. Mi sembra, se non erro, è a fianco la grotta di Batman. Ah sì, è proprio sì. Quella a fianco. Quella con la cassetta delle lettere rossa fuori. Quella lì. È bello farlo vedere anche le immagini in TV, magari qualcuno potrebbe capire. Va un po' di moda da quando Bin Laden faceva vedere dove stava lui. Bene, allora... la notizia bomba. Dovremmo fare delle foto del posto qui allora. Sì, perché ci assomiglia. Ma io volevo solamente ricordarvi che nelle foto, quando compare qualcuno di WikiLeaks, se voi guardate dietro c'è una tastiera appoggiata al muro. Se la tastiera è orientata verso destra vuol dire una cosa, se è orientata verso sinistra un'altra. Scusa, messaggi hai detto, in codice. Hai detto compare? Compare. E compare e scompare. Vabbè, niente, compare e scompare. Però insomma, allora passiamo alle nostre belle news. Stacchetto le dalla regia? Grazie. Di oggi. Grazie. Allora, molto interessante, la nuova versione di Google Earth 6. In quest'ultima versione Google ha voluto lavorare molto sull'integrazione di Street View e il risultato raggiunto pare essere molto interessante. Quali sono le novità principali? Le aree coperte con una linea blu, in pratica le strade, significano che c'è la possibilità di utilizzare la tecnologia Street View direttamente da Google Earth. Cioè un po' come in Google Maps. Sì, esatto. Le strade blu? Le strade blu. Sì, le strade che vengono colorate di Venezia. Blu. Non sono le statali, ma sono quelle con Street View disponibile. Devo dire che Street View si sta ampliando parecchio. Nonostante tutto. Come direbbe un nostro amico... E sti cazzi? Ecco, ogni tanto vedo le macchine di Google, dico, beh, questo qua o uno spione o di Google. Vabbè, che è la stessa cosa. E, insomma, inoltre è migliorata la rappresentazione tridimensionale degli oggetti. A tal riguardo vorrei ricordarvi la famosa modalità... Gianna la biondona. A volo di uccello. La modalità a volo di uccello di Google Earth, dove voi potete appunto vedere dall'alto questi edifici tridimensionali, e una miglioria molto importantissima sulla quale Google sta molto premendo, facendo, cioè insomma ci tieni a farcelo sapere a tutto il web, bottone, oggi l'hanno voluto dire a tutti, che Google in questa versione di Google Earth 6 ha una rappresentazione più realistica degli alberi. Bravi. Perché bisogna essere anche verdi, ecocompatibili, eccetera. Quando ci vuole. Questo è tutto. Quindi quando la strada è blu, quando la strada è blu, tu puoi vedere Street View, ci sei anche tu. Che storia. Ecco, benissimo. E quindi questa era una delle tante notizie che potete ascoltare su Opencast. Umani. Noi umani. Sì. Il fatto che in Google Earth ci siano gli alberi più realistici, che cosa ci cambia? Ma guarda, io credo che sia fondamentale. Io l'altro giorno dovevo andare a un appuntamento in un paese qua vicino. Ho detto, vediamocelo su Google Maps. Se fa di soldi, non è caso mettere il GPS per andare a 10 km. Ok. Guarda, c'era anche Street View interessante. Poi ho detto, mettiamo la modalità volo di uccello. Ho visto che a bordo strada c'erano degli alberi in 3D. E quindi? Ti sei dato appuntamento al quarto largo. Quindi ho detto, vediamoci un 20 metri più avanti da dove ci eravamo detti prima, perché altrimenti lì non posso fermarmi con la macchina. Sono le piante. Sono queste tecnologie che migliorano la vita, certo. Signori. Sono queste tecnologie altrimenti che migliorano. Non avreste potuto incontrarvi. Assolutamente. Ma soprattutto migliorano. A noi esseri umani, che Google Earth sia arrivato alla versione 6. Sì? Non ho mai provato neanche una. Ci interessa davvero! Cazzo, anche la rullata ti sei portato da casa. Sì. Stavo a sentire cos'è che avevi portato. Una roba importante. Ok. Quindi chi scaricherà vedrà. Chi scaricherà vedrà. Penso che ci sia il client come al solito per tutti i sistemi operativi più diffusi. Quindi non so, Amiga, Commodore, certo. OS 2, BIOS, certo. Windows QNX, 7, phone. Windows 3.11 e 2.0 anche. 2.0 che introduce, attenzione, prefisso. Notizia dell'ultimo minuto, Windows 2.0 introduce la tecnologia di sovrapposizione delle finestre. È incredibile. Ci vorrebbe un altro stacchetto qua, direi. Incredibile? Ecco qua. Mi preoccupate veramente. E stasera è così. Stasera va avanti tutto il tempo così. No, dimmelo prima che mi organizzo. Dai Fabio, passa avanti anche tu con qualche news. Forza. Allora, abbiamo parlato di sistemi operativi. Sì. Io butterei dentro questa news un pochino triste, da un certo punto di vista, che Symbian Foundation sta chiudendo il sito. Quindi questa è una notizia molto triste. Non tragica, triste. Questa è tragica. Questa era proprio drammatica. Vabbè, non ne ho di così tragiche. No, va bene. Tristi. Allora, stavo dicendo che Symbian Foundation sta chiudendo il sito. E questa era per alleviare. No, questa è una che lavora alla Apple. Ah, ok. Grazie. Dicevo che Symbian Foundation, la fondazione che dovrebbe in teoria tenere d'occhio lo sviluppo di Symbian, chiude il sito, tutti a casa. D'ora in poi, se volete il sorgente, sarà disponibile su DVD, ma solo a partire dal prossimo febbraio. Che se proprio regalo. Ne volete, cioè giusto in tempo perché se ne dimentichino un po' tutti. Un po' tutti. Ma c'è ancora qualcuno che usa Symbian? Sì. E Nokia. Nokia. Solo. Praticamente. Beh, comunque non dimentichiamo che Nokia ha ancora più del 35%. No, che dico. Ha una percentuale, cioè ha proprio a terminale. Cioè, virgola. Insomma, cioè, con le tue parole. Con le mie parole, a terminali venduti è ancora imbattuta come casa produttrice. Probabilmente Symbian potrebbe sopravvivere, essere rilegato a terminali di fascia medio-bassa. Probabilmente sulla fascia alta andranno a inserire il MeeGo. È probabile. Che infatti. Si delinea questo scenario sui telefoni bassi, vecchi Symbian, quelli diciamo medi, Symbian 3, che c'ha il touch, tutto sì. Quello che vuoi, e poi sugli evoluti, MeeGo e sì. Il mio amico. Ma sarà anche una cosa un po' transitoria, penso, perché morirà pian piano probabilmente. Anche perché sinceramente Symbian. Tu adesso hai Symbian. Tu, uomo della strada. Tu, uomo della strada. Signora Pina, lei che ha il telefono con Symbian. Pina, accendi il telefono. Accendi il telefono. Tu che hai. Mi raccomando, spegni il telefono. Il telefono è morto. No. C'era Symbian. E andiamo sull'horror. Faremo una puntata speciale per Halloween il prossimo anno, magari. Il telefono vivente. Il telefono o no? Morto vivente. Il telefono, sì. E niente, insomma, voglio dire, la signora Pina che c'ha il telefono con Symbian e vuole l'applicazione per calcolare quanto gli costa la spesa. Ma. È al giorno d'oggi si trova in difficoltà. Secondo me aspetta il governo che gli manda un convertitore. Certo. di solito gli mando un convertitore. Sì, lo fecero con l'euro perché non dovrebbero farlo adesso con le zucchine. Con Symbian. Tanto ormai con le zucchine. Ah, magari le calcolatrici le useranno ancora un giorno Symbian. Vabbè, ah, probabilmente sì. Bene. E ricordiamolo. Siamo, noi sapete che noi di OpenCast Alpha siamo avanti, quindi cominciamo a ricordarci, ragazzi, di Symbian. Siamo avanti per niente, ci hanno già fregato le idee. Ci hanno già fregato le idee, ma chi? Ci ha fregato le idee. Hai sentito un altro podcast, allora, OpenCast. Ti ricordi, no, che noi all'inizio dell'OpenCast comunque spingevamo molto su questa realtà 3D, tutte queste cose strane, sì. Gianna la biondona. Ci hanno fregato. Ci hanno fregato? Sì. Che è successo? Stanno iniziando a tirar giù tutti i film porno in 3D. Non sappiamo più cosa fare adesso. No, beh, insomma, una mezza idea ce l'avrei. No. Io lo so benissimo cosa fare: comprarmi uno schermo a 120 Hz e un paio d'occhialetti. Esatto. Ma il problema è che poi vai a sbattere perché diventi cieco. Già, se cavolo, sei cieco, se come fai a usare un porno? Secondo me, 3D? Se prima diventavi cieco, adesso cosa diventi? Cieco slovacco? Per la, mamma mia, per questa la rubrichetta freddure. Ancora una volta. È abbastanza. Questa volta niente, il pubblico non ha apprezzato. Non ha gradito. Non veramente pessima. Comunque stanno iniziando, sta nascendo una nuova televisione che trasmetterà, diciamo, filmetti un po' così in 3D. Sì, vabbè. Adesso stiamo cercando di craccare le schedine, vediamo. Le schedine, come cosa riusciamo una a fare. Volta. Ma io penso no. Penso che non saranno. Questo è un argomento molto serio, a mio avviso. No, lo non terremo so. D'occhio. D'occhio perché purtroppo propinano molto, molto barra troppo conversioni un po' mediocri di materiale in 3D, cioè di materiale 2D praticamente convertito in 3D. Anzi, televisori che commercializzano adesso, molti hanno proprio questa funzione: fai diventare 3D quello che non è, ma in realtà. Sono banfe. Sono un po' di banfe. Io ho paura che. Cioè, la prova del cuoco in 3D. Ma sai com'è l'Antonellina? Osti. Se non Antonellina mi sta cara. Se l'Antonellina non mi sta attenta, mi prendo un sacchetto con non lo so, panna montata, roba così, sugo. No, un attimo. Tu hai delle certe. Lascia stare. Vabbè, se l'Antonellina. Antonellina cara. Ecco. Ma veniamo alla notizia. Veniamo alla notizia. Perché io vi ho scaldato la questa storia tu. Del. La notizia tu. 3D porno. Sì. Per parlarvi di una cosa veramente fenomenale. Sapete, io ho il tablet nel cuore, io c'ho questa nel cuore, meno male. Perché ha delle determinate dimensioni. Comunque, sì. È uscito un altro tablet, o almeno sta per uscire un nuovo tablet. Cioè, ma una cosa fuori dal mondo proprio. Cioè, roba. Allora, io vi dico solo due caratteristiche: display con risoluzione effettiva, sì. 480x800. Aspetta. Il mio 8086. Non me lo dire, è un 7 pollici. Mizzega, proprio tutti e 7 ce li ha. Vedi. È un signor è davvero davvero un signor tablet. Poi allora ha una fotocamera frontale VGA. VGA per foto cui siamo sempre a manetta, sì. Diciamo che se fate una foto non ci sta nel video. Esatto. Schermo MGA. Ma lo schermo comunque è touch screen. Resistivo. È touch screen. Quello è touch screen che scrive. Resistivo. Attenzione. Meno male alla wifi. Però da quanto ho capito non prende. Non prende. È resistivo. Quindi resistivo non prende. Non prende. Resistivo. Con su Android. Cioè. Che versione ha di Android, scusa? Mica Frodo, quel il tuo amico. Mica Froio. Frodo, il signore dei pastelli lì. Il signore dei pastelli, anche l'ultimo. No, la 2.1. Ma insomma. Perché Symbian adesso è morto, se no metteva ancora. Se no metteva Symbian. Chi è che lo fa? Ma chi è che lo fa? Ma soprattutto quanto ce lo faranno pagare? 300-400 euro? Sì, dai 315 ai 350 euro. Dollari. Sì, sono quelli cinesi più meglio. Molto meglio, ma soprattutto il video. Con quelle caratteristiche lì. Senti, ma insomma, come si chiama sto prodotto? Chi lo fa? La fa Nvidia, giusto? Come Nvidia? Mi pare Nvidia. Ma come Nvidia? Chi lo fa? Uno lo fa, l'ha fatto, l'ha detto: "Uè, zio! Vieni qua, zio." Si chiama zio. Cioè tablet si chiama zio. Con quelle caratteristiche, come lo vuoi chiamare? Ma zio, cioè, oh zio, guarda che stai indietro troppo. C'ho lo zio. Oh zio, ma come stage? È VGA. Oh zio, hai visto che zio? Zio, c'è la fotocamera VGA. Guarda che sul telefono mio c'ho già quell'HD. Cioè, ci sparo anche i video. Oh zio. Zio, sei troppo indietro. Oh zio, cioè. Cioè, zio, no, guarda, veramente. Vergogna. Hai visto che roba, zio? Una roba vergognosa. Cioè, zio, hai visto il mio zio? Che zio? Vuoi un 2.1? Zio. Zio, sei zio, indietro. Ma... sei indietro. Siete troppo indietro, ragazzi. Cioè, zio, che storia. Ho trovato uno zio. Brutta. This is a Saturday, it's time to dance. This is a Saturday, there is no time to waste. I'm going to a club to drink, to dance. I see your pretty face, I drink, I dance. This is the night, I'll show you what I got. This is our night, I'll show you what I got. I am the hero of the night. I'm gonna make you happy. I am the king tonight. The drinks just make me strappy. This music drives me mad. I feel like losing cat. Tonight I won't be sad. I will not miss my bet. This is a Saturday, I drink, I dance. This is a Saturday, there is no time to waste. This is the night, I'll show you what I got. This is our night, I'll show you what I got. I am the hero of the night. Gonna make you happy. I am the king tonight. The drinks just make me strappy. So now take off your gloves and move your. Opencast, il podcast che ti aiuta a ritrovare la tua naturale regolarità. Con un profumo di arancia nell'aria, ma anche di clementina. E cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi che ti dica? Un podcast durante il quale si fa anche il pieno di vitamina C, signori. Non solo voi che lo ascoltate, ma anche noi che lo facciamo. A tal proposito di vitamina C vorremmo parlare e vorremmo ricordare a te, donna, tu che signora ci stai ascoltando, signora che ci stai ascoltando, ti volevamo ricordare, non sono stato io, che questo weekend c'è la gita organizzata ai mercatini di Bolzano. Franca, non sono stato allora, io. Allora Franca, io ti faccio una previsione di come funzionano le cose. Ti vedi la mattina alle 7, sale sullo bus. Sullo pullman. Sullo bus che non capisci niente e c'è già il signor Renato che ti fa una cappa tanta con le pentole. Che ti dice, allora, guarda signore, scusa, allora, scusi signora, mi vengo un poco qui in mezzo. Vede, questa c'ha questa acciaio inox 18-10. Questa è una pentola buona 18 inox. E insomma, da Como a Bolzano, da dove, ti fa una capa così. Poi quando scendi, te lo dico, cioè preparati, mettiti un pigiama di sotto che fanno freddo che siamo ora pura mattina a Polzano, che ci sono stato l'anno scorso, no forse erano 2 anni fa. Ecco perché a casa tua ci sono le pentole. Ecco, infatti. Sei pieno di pentole a perché casa. Perché io quando sono... Il servizio Bolzano. Signor Renato, ci accordiamo così, noi facciamo una colletta, ci pigliamo una batteria, ma lei si deve stare zitto e seduto tutto il tempo, per favore, perché sennò veramente... Però avete dimenticato l'opzione B. L'opzione B. L'opzione D è si compra una padella. Sì. Una di quelle piatte un po' grandi col fondo bello spesso che tiene bene il caldo. Ah, e ci pensiamo così al signor Renato. E bravo, vedo che hai capito. Bravo, bravo. Bene, andiamo avanti. Dopo questo signor Renato, torniamo alle nostre news. Allora, vi voglio parlare di Novel. Sapete chi è Novel? Chi è Novel? Tu lo sai? Chi è Novel? Tu lo chi sai? È Novel? Che Novel? Ah, Novel, quella Novel. Quella novella... rimasta famosa per aver comprato SUSE. Quella rimasta famosa per aver fatto degli accordi con Microsoft sui cose. Quella novel... rimasta famosa per lo sviluppo di Mono e di Silverlight. Guarda Novel. Anzi, di Moonlight. Moonlight ha tante Spirit. Cose in più. Il drive open source. Anche quello closed source. Guarda Novel Linux. Secondo me c'era qualcosa di strano in più. Il Novel Linux ti offre tante cose in più. Abbiamo accordi esclusivi con Microsoft. Sei un'azienda? Avevi. Perché? Avevo. No. Avevi Novel. Perché? Perché? Cosa è successo? Perché Novel è stata acquistata. Da chi? O è in via di acquisizione. Lo so. Da Oracle. No, no, stavolta no. È in acquisizione da Attachmate. Ah, che ci sorro. Queste acquisizioni a me non mi convengono. Ma vede, donna, questa acquisizione noi pensavamo di farla perché poteva portarci dei soldi. Va bene, avete la mia benedizione. E insomma, è bello avere insomma questi momenti di silenzio. E infatti, insomma, hai detto. E diciamo insieme, Novel, grazie perché hai sviluppato delle cose buone. Cosa? Ma manterrà il nome comunque. Anche se Attachmate comprerà Novel, manterrà il brand, come si dice, e continuerà. Pare che lo sviluppo, la parte diciamo Linux e quant'altro verrà mantenuta, anche perché Attachmate è interessata ad avere questa fetta di mercato. Ma sto pensando a cosa Novel ha portato nel nostro mondo. Niente, ha portato SUSE Studio. Fame e gloria. Cos'è SUSE Studio? È un sito online dove tu praticamente ti prepari la tua distribuzione SUSE con i pacchetti che vuoi, che ti interessano. SUSE misura. Scarichi la ISO e te la installi già pronta e man mano quando te la riscarichi con i pacchetti aggiornati. Mica male. Tutto qui. Amica male. E vabbè, no, un po' di cose le ha anche fatte comunque, ma a parte questo... Microsoft, nel corso di questa acquisizione, Microsoft acquisterà alcune proprietà intellettuali di Novel. Non ci è dato sapere quali. Però ora non si capisce nulla di questa notizia che stiamo dando, quindi torniamo un attimo indietro. A Bolzano. Perché stiamo dicendo questa notizia? Perché il signor Michele De Casa, che è leader del progetto Moonlight, vicepresidente della tecnologia per lo sviluppo del Novel. E mi ricordo, c'eravamo io, Michele De Casa. C'era e Fidel. Fidel. E leader, questo è un grande leader della Sud America. Lo sapevo che siete tutti comunisti. E andiamo avanti. Vicepresidente della tecnologia del sviluppo Novel, attraverso il blog personale, ha fatto sapere che Moonlight attualmente sfrutta l'hardware accelerato della vostra GPU. Quindi accelerazione hardware per Moonlight. Moonlight, attraverso l'accelerazione hardware, sarà in grado di applicare trasformazioni 3D a qualsiasi oggetto Silverlight. Ah! E indipendentemente dal fatto che si tratti di disegni, immagini o video. Cose che Silverlight non fa, tra l'altro. Tra l'altro, cioè, capito? Il discepolo che supera il maestro. Opobaco. Ma tra l'altro, nel frattempo, Microsoft ha dato una direzione diversa a Silverlight. Non più come... antagonista totale di Flash, sì, bensì più orientato verso lo sviluppo su piattaforme come l'Xbox o il Windows Phone 7. Queste cose. Per cui Moonlight diventa una cosa a sé stante alla fine. Cioè Moonlight continua sul suo percorso di essere plugin multimediale. Un po' di diverso. Esatto. Forse è per questo che sul nuovo Windows Phone 7 c'è tutto. Sono l'accensione. Fatti i cavoli tuoi. A proposito, ma avete visto Wall-E? Chi? Wall-E. Il film. No, era là. Era Wall-E? Voilà. No, era là. Avete notato che suono fa quando si accende Wall-E? Chi è Wall-E? Sì, io l'ho beccato. Notato, sì. Io ho beccato. Vabbè, comunque, prego, mi scusi. Siete due disgraziati. Comunque, su Windows Phone 7, sì? Una cosa che sì? Di cui un po' ci si lamenta è che manca Flash. Che cosa? Vabbè, che, ti Flash. Lamenti di cosa? Che anche sul, no, no, sul iPod manca. Quindi è giusto? No, no, no, è giustissimo. Infatti io adesso vedo tutti i siti senza Flash. Ma io sono un estremista. Ancora un po' uso links o links scritto nell'altro modo. Pensa, ma navigare senza Flash è proprio strano. Hai ragione, hai ragione. Pensa che c'è gente che è talmente estremista che quando va sul sito di Microsoft fa www.microsoft.sis. Sis. Sì, oppure appunto DDL. DDL. Ah, è proprio estremista. Sì, beh, veramente all'estremo del... Comunque, all'estremo. Un'altra cosa di cui si lamentano di questo nuovo sistema operativo è l'assenza del copia e incolla. E uno dice, vabbè, ma cosa te ne fai? Di solito queste cose qui sono sui telefoni. Va bene, Microsoft ha messo la suite Office. Provate voi a usare Word o Excel senza copia e incolla. Ma vedi... generale torna comodo. In generale Microsoft copia e incolla. E no, quindi... sono gli altri. No, aspetta. Microsoft copia e incolla. Copia e incolla. No, e quindi per esempio vorrei ricordare che quando uscì l'iPhone non aveva la funzione copia e incolla. E non continua. Aspetta, vedo quindi, una invitiamo di... Microsoft a cambiare il terminale da cui copiare. Il 2G ormai è andato, ragazzi. Quel firmware lì è vecchio. Prendetevi un 4 con il firma 4.3, 4.2, studiate quello. Attenzione, attenzione, effettivamente vedo una cosa, una situazione che si ripete effettivamente. Niente Flash, niente copia e incolla, scarso multitasking. Forse studiano anche il marketing della concorrenza. Ma sai che c'è il rischio che faccia successo? Infatti c'è la finestra un po' mozzicata dietro. C'è il rischio che faccia veramente... Ah sì, adesso veramente, ha cambiato anche il logo. Sì. Invece ma veramente, la finestra che è spinto. Veramente è smozzicata. Successo. Te mi avevi detto una cosa, te, del... Orbene. Del l'App Store. Ah, vabbè. Dovrebbero poi a questo punto effettivamente quelli di Microsoft copiare anche il software fare di certi controllori delle applicazioni sull'App Store di Apple. La macchina qua me la devi mettere là. A quanto pare hanno rifiutato un'applicazione di un magazine che parlava di Android, la cui motivazione tecnica di questo rifiuto è stata insomma, parla di Android, non mi sembra il caso. No, è impossibile che abbiano detto questo. Probabilmente hanno detto ci saranno dei link a dei siti violenti, pedofili o per scaricare musica pirata. Sì, sì, no, io ho sentito la parola pedoporno terrorista. Vedi? Sì, abbiamo in regia, mi dicono, il maestro del rinascimento su linea 2. Ce lo volete passare? Prego. Io credo che... Guarda, io credo che futuro tutto buono. Sembra Mourinho. E... sì. Squadra scoppiata e allora... metà classifica, te l'ho detto. E squadra da metà classifico quest'anno. Vabbè, attaccate il telefono. Io ho vinto favore. Tutto, tu zero attacca, titoli. Attacca il telefono, via. Attacca. Cioè, ci passano un Mourinho facendosi spacciare. Qui si spacciano altra roba. Sì, sai, decisamente. Questo Opencast. Bene, rolla, ragazzi, rolla. Volevamo ricordarvi che tra poco è Natale. Ah sì. E regalatemi un iPhone. Perché? Recalatevi. Così lo studio per il copia e incolla. Il copia e incolla. Capito? Lo vendo poi l'iPhone. Ah, beh, quello è vero. Ah, a proposito di cambiare direzione, parola che è stata detta circa 7 minuti e mezzo fa. Tic-tac, sì, tic-tac. A proposito di cambiare direzione, volevo far sapere ai miei fans che saluto. Ciao a tutti. Ciao, grazie, grazie. Tutti e tre. Tutti e tre, 1, 2, 3. Ah! Tua mamma, tua nonna. No, mia mamma. Il gatto. Il gatto. Sì, da questa sera lo sa che sono qua. E volevo dire ai miei fans. Perché prima venivi di nascosto. Dicevi, mamma, no, io perché... vado al cinema. No, adesso gli ho fatto sentire pianoforte e si pida che sono qua. E insomma. Ecco perché prima telefonavi e suonavi il pianoforte. È una cosa indegna, mi prendete sempre sopra. No, io no, figurati. Non mi ricordo, voi siete dei mistificatori. Ma tu ne sai di televisione? Io, se permette, ne so più di lei. E con questo la saluto. Buonasera e buon divertimento. Perché questa non è una televisione. È qua che ti frega. Lei è un sobillatore è un mistificatore della realtà. Beh, comunque, volevo dire, a proposito di cambio di direzione, che sono diventato ufficialmente un beta tester di Wiki2Drive. No. Mi hanno mandato delle mail e oggi è arrivata la mail che mi ha detto è uscita la nuova versione, ma hanno mandato il link alla nuova versione. Interessante. Così, farei sapere man mano. Vi farò sapere quali sono i miglioramenti di questo software. Quindi abbiamo così tanto? Sì. Abbiamo un beta tester ufficiale. Abbiamo l'insider. Abbiamo un insider, abbiamo il nostro gola profonda che ci racconterà i dettagli più piccanti. Se avete bisogno di qualche news in anteprima, contattatemi al mio indirizzo email che è cicciopasticcio82444549 @gmail.com e basta. Ma è vera quella mail? Sì, il problema è quello. Sì. E niente, volevamo ricordarvi che tra poco è Natale e siamo tutti più buoni e noi cercheremo di essere sempre più brillanti e di farvi avere sempre le migliori news. Ci sarà senz'altro una puntata specialissima natalizia. Certamente. Come tutti gli anni. Certamente. In diretta dall'arena 142 anni a questa parte. Esatto. Mi ricordo che era il 1873 la prima volta che abbiamo fatto uno speciale natalizio. Il 38 luglio. Esatto. E faceva caldo. Era uno speciale natalizio molto speciale. Sì, per quello che sono morte le renne. Baltimora. Sì, sì, mi ricordo anch'io. Direttamente, diretta da Baltimora. Eravamo in diretta da Baltimora nel 1873? Sì. Avevo detto un altro anno prima, non mi ricordo. 76? Sì, importa ben poco, ragazzi. Ormai sono passati tanti anni. Ragazzi, giocatevi questi numeri, il Superenalotto vi premierà prima o poi. Nel caso doveste vincere qualcosa... Niente, ricordatevi degli amici, fateci sapere scrivete sul sito www.gl-como.it. ecco. Un'offerta, 20-30 mila euro, prego, prego, scusi. Posso concludere? Sì, mi scusi. No, dicevo che se vincete qualcosa fatecelo sapere, mandateci un commento sul sito www.gl-como.it dove trovate tutte le puntate di Opencast Alpha. Vi hanno parlato in questa mezz'ora e passa Loris, Coso ed io. Direi Ciao. Che possiamo concludere qua. Il tempo passa in fretta. Ricordo che i pezzi che abbiamo fatto ascoltare sono tutti scaricabili liberamente in Creative Commons dal sito di Jamendo. Troverete i link sempre sul nostro bel sito. E vivete contenti. Avete ascoltato Opencast Alpha, il podcast tecnologico di impegnato del DL Como. Tutti i link e le puntate su www.dl-como.it. Ci sta dentro è sempre più contento. Che devo fare io? Lo tengo o lo ammazzo? No, lascialo andare. Lascio? Che faccio? Lascio? Lasci, grazie. Ho fatto un netto e mezzo. Sì, lasci. Si preoccupa.